Oggi siamo tornate in piazza fisicamente dopo 2 anni di pandemia. Come sempre non torniamo, diciamo, per un'unica rivendicazione, lo sciopero femminista e transfemminista. Diciamo, ci piace immaginarlo come uno sciopero di liberazione del proprio tempo, non come uno sciopero vertenziale, come appunto sicuramente sciopero, quindi astensione dal lavoro produttivo e riproduttivo, ma anche un momento per stare insieme alle proprie compagne, liberare degli spazi, del tempo. Anche qui in piazza, per esempio, si è costruito uno spazio bimbo per far sì che potessero partecipare anche le donne, le persone che sono state oberate di lavoro di cura, soprattutto in questi ultimi 2 anni. Noi come studentesse e studenti dell'università scendiamo in piazza per tanti motivi. Uno di questi è proprio le contraddizioni che ha anche innescato uno strumento come la DAD, lo smart work, che sicuramente non è qualcosa che critichiamo in toto, perché ha permesso a tante persone di poter seguire le proprie attività lavorative, però ha anche allo stesso tempo aumentato il carico di lavoro, ci ha reso più isolate all'interno delle case, che sappiamo essere anche spesso degli ambienti non troppo safe, non troppo sicuri, e appunto ha sicuramente aumentato anche una situazione di isolamento anche proprio rispetto alla didattica. E noi scendiamo in piazza come studente, infatti il nostro è anche un collettivo che lavora all'interno dell'università e delle scuole per rivendicare anche una formazione, un'educazione che sia femminista e transfemminista. E ancora oggi, anche all'interno dell'Università di Bologna, che può sembrare insomma effettivamente un ateneo anche progressista con un dipartimento di studi di genere, però esistono ancora tanti fenomeni che vogliamo contrastare, da cui vogliamo anche scioperare. Penso al fenomeno delle molestie all'interno dell'università, penso alla didattica appunto misogina, transfobica, sessista. Ci sono ancora dei corsi, faremo anche un'azione in Piazza Verdi al preconcentramento, in cui denunceremo appunto dei contenuti didattici davvero problematici che ancora si annidano nei nostri corsi universitari. Come collettivo, fortunatamente, e anche come con tutta Non Una di Meno, siamo riuscite finalmente quest'anno a intercettare tante studentesse e studenti delle scuole. Abbiamo costruito insieme questa giornata per un po' i motivi che dicevo prima, che condividiamo come compagne, e sarà anche un momento importante oggi poter dare vita anche a dei momenti di formazione alternativa. Infatti in piazza ci saranno dei laboratori sull'educazione sessuale, sul consenso, lezioni alternative, laboratoriali e non frontali, per costruire proprio un'altra idea di educazione e di didattica, che è sempre anche più aziendalizzata, più burocratizzata. E infatti l'incontro proprio con le studentesse e gli studenti delle scuole è avvenuto anche insieme durante le manifestazioni, le mobilitazioni delle ultime settimane contro un modello di alternanza scuola-lavoro davvero che produce morte, che produce sfruttamento e precarietà. Quindi siamo qui anche per tutto questo.